Raccontiamo un po' di cosa parla questo libro. Questo libro è ambientato nel Settecento a Venezia e parla dell'arrivo a Venezia di un animale particolare, un animale misterioso che i due bambini protagonisti del libro, Esther e Suleiman, non avevano mai visto. Esther è una bambina ebrea che vive chiusa nel ghetto di Venezia e Suleiman è un piccolo schiavo di origine africana che non ha mai visto, non si ricorda l'Africa. Dice: ma io dell'Africa, dice Suleiman, non ricordo proprio niente. Ogni tanto mi ricordo del profumo del mango, dello zenzero, della cannella, ma a parte questo dell'Africa non so proprio niente. Quindi due bambini, uno preso dalla nostalgia per la mamma, per l'Africa, l'altra chiusa dentro un ghetto, che vengono in contatto con questo animale. E poi ci sono tutti gli animali di Venezia, questa città un po' magica. Sì, io penso che Venezia in generale sia una città molto magica. Io ho cercato nel libro di descrivere, di andare oltre la cartolina, perché poi Venezia, frequentandola, perché questo libro l'ho fatto anche un po' grazie all'aiuto dell'Università Ca' Foscari e in particolare del professor Shaul Bassi, mi hanno fatto conoscere una Venezia più viva, una Venezia misteriosa ma anche magica. E una delle cose che ho conosciuto è appunto, è stato un museo, un Carrezzonico di Venezia, un museo del Settecento veneziano, e qui c'è un quadro molto particolare di Pietro Longhi, che amava appunto descrivere la sua Venezia. E questo quadro, questo è l'inizio per me in qualche modo dell'interesse per questo animale strano, che poi è un rinoceronte. C'è questo rinoceronte in mezzo a delle maschere veneziane. Allora mi sono proprio chiesta: cosa ci faceva un rinoceronte a Venezia, soprattutto cosa ci faceva nel Settecento a Venezia? Quindi ho cominciato a indagare sulla storia di questo rinoceronte, che effettivamente ha una storia. È una storia che parte da un'idea vera, cioè parte da un quadro e parte da questo rinoceronte che effettivamente è stato portato in tour per tutta l'Europa, quindi anche a Venezia al Carnevale, che effettivamente si chiamava Clara, e io non ho inventato il nome gliel'hanno dato nel Settecento, e tendenzialmente un po' mi dispiaceva che questo rinoceronte, poi il vero rinoceronte, morirà in cattività, a 20 anni, ma in cattività, e un po' mi dispiaceva perché comunque è una vita di schiavitù, una vita anche di derisione e anche di tristezza, perché a un certo punto il rinoceronte vero perde il corno, perché i rinoceronti in cattività perdono anche il corno, comunque si rattristano gli animali quando sono rinchiusi in una gabbia. E allora nel libro, almeno il potere della letteratura è questo, un po' cambiato le carte in tavola, quindi il rinoceronte viene aiutato da questi due bambini, Suleiman e Esther, che liberando, in qualche modo aiutando il rinoceronte, liberano anche un po' se stessi, perché comunque sono tre condizioni molto diverse, ma tre condizioni effettivamente di schiavitù. Father, Father, Father, help us. Some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love, the love. I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from... E io ho molto usato sia la suggestione odierna, no? Che molti figli di migranti non hanno la cittadinanza in Italia. Sono partita però anche da una schiavitù reale, che era quella degli ebrei nel ghetto di Venezia, e che è il primo ghetto della storia che ha compiuto da pochissimo 500 anni, ed è l'inizio un po' di una segregazione urbana che ci dice anche molto della segregazione urbana di oggi. e della schiavitù in Italia, perché noi non ci pensiamo mai, ma la schiavitù che ha interessato le coste atlantiche, l'America soprattutto, sia del nord che del sud, però ha avuto un inizio, diciamo, sia con la schiavitù perpetrata dai paesi di origine araba, ma anche attraversato l'Italia. Cioè, noi pensiamo che, non so, Trapani o Livorno, Venezia in maniera anche un po' minore, ma Livorno, Genova, erano luoghi in cui c'erano mercati di schiavi, dove c'erano tanti schiavi. Nel Mediterraneo la schiavitù era reciproca, cioè spesso cristiani nel Nord Africa e, non so, musulmani animisti in Italia, in Francia o in Spagna. Ecco, quindi c'è anche questa suggestione che viene un po' dalla tradizione del moretto veneziano, che è una cosa che da nera un po' mi agghiaccia. Ogni volta vedo questi neri che fanno da soprammobili negli hotel o appunto sono orecchini, o effettivamente ci sono delle statue, penso a quella degli schiavi dentro la Basilica dei Frari. Dobbiamo fermarci un attimo perché c'è una pausa e torniamo tra pochissimo. Pierluigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale. E poi? E tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile. Tutti i giorni, tutti convocati. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.30, c'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente. Siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni. Di tutti siamo convocati. Una squadra fortissimi. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor heart break. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh, vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia. E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro. That's the story of, that's the glory of love. As long as there's the two of us, we've got the world and all its charms. Bentornati da Valentina Furlanetto. Questa sera siamo con la scrittrice Hijaba Shego e il suo libro per bambini, Prestami le ali, un libro sulla ricerca della libertà. Allora, parliamo un po' di questi protagonisti. Ci sono questi due bambini. Uno, l'abbiamo detto, è Suleiman. Ho letto quel pezzettino in cui lui aveva delle suggestioni di sapori, di odori della sua terra di origine, perché, come tu sai, noi ci ispiriamo sempre a questo. Ma un'altra nostalgia terribile per questo bambino è quella verso i genitori, che lui, che sono rimasti in Africa e che lui si ricorda di loro. E gli mancano da morire, dice. E mi sono venuti a mente tutti quei bambini minori non accompagnati che arrivano in Italia in questi anni. Sì, no, assolutamente questo bambino mi viene da tante suggestioni, sia antiche che moderne. E io quello che volevo veramente creare era far capire ai bambini di oggi, nelle scuole di oggi, e quanto sia importante la libertà. Per me questo libro è un inno verso la libertà, che può essere una libertà reale, no? Scappare da una stato di schiavitù, ma anche una libertà mentale, no? di essere meno schiavi di tutto quello che ci circonda, dalla tecnologia, dalle mode. E quindi parliamo molto perché io insieme al libro comunque faccio un laboratorio, quindi porto queste storie ai bambini. I bambini, a parte che adorano i rinoceronti, ho scoperto che è un animale molto amato, però ecco, si identificano molto in Esther e in Suleiman, perché loro sono praticamente, sono loro. Cioè, io infatti non è sono che... loro che liberano loro. Clara, che aiutano la rinoceronte indiana, sì, a liberarsi. I bambini che hanno qualche... perché questo libro effettivamente nasce da questo mio primo laboratorio alla Pisacane, e sono i bambini che mi hanno detto: ma dobbiamo liberare Clara, no? E quindi i bambini che istintivamente hanno questa voglia di liberare, liberarsi, e lo si vede anche molto nella protagonista Esther, che comunque è, oltre che liberarsi, è molto orgogliosa delle sue origini, no? Quindi c'è questo orgoglio che passa per lei attraverso la gastronomia ebraica. Sì, anche in questo veneziana. Caso ci sono suggestioni che cogliamo molto con piacere, quella della pasticceria ebraica, di questi biscotti, gli zuccherini, le bisse, i dolci, le di pasta di mandorle, insomma tante suggestioni, perché la mamma è pasticcera, no? E al ghetto di Venezia in effetti è iniziata una tradizione di pasticceria che poi è diventata anche veneziana. Assolutamente sì, poi in realtà lì c'è una suggestione reale per quanto mi riguarda, perché chiaramente questa è una favola, no? Una favola, e quindi ho mischiato tante cose insieme, però una delle cose che ho fatto è stata una residenza a Venezia, proprio su un progetto sul ghetto di Venezia che si chiamava appunto Remapping the Ghetto. E ho conosciuto questo luogo che non tutti attraversano nella città, e ho visto le sinagoghe, appunto ho mangiato tanti dolci, che non è male, e ho parlato con le persone. Quindi in qualche modo veramente ho cercato di approfondire questa conoscenza della tradizione ebraica, e soprattutto ho cercato di oltrepassare quello che purtroppo consideriamo Venezia. Ahimè, Venezia è una città che avrebbe bisogno dell'aiuto di tutta l'Italia, perché è una città bellissima, fragile, bellissima, e che trattiamo come Disneyland. Invece secondo me avrebbe bisogno di un programma speciale, di investimenti speciali, di una cura, di un amore che spesso manca. Cool. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up? Il ghetto in effetti non è nelle itinerari turistici più battuti, però è un luogo di grandi suggestioni. E tu racconti del ghetto com'era. Esther, questa bambina, era dispiaciuta di non poter vedere la sua città, scrivi. Ma le donne ebree non potevano uscire dal ghetto, era severamente proibito. Gli uomini e i ragazzi potevano uscire qualche volta, ma anche loro dovevano tornare prima del tramonto, prima che si chiudessero le grandi porte. Poi zac, tutti dentro. Siamo ebrei, dice la bambina, non ci è permesso di fare ciò che vogliamo. Nemmeno a me è permesso di fare tutto, sono uno schiavo, sospirava a sua volta Suleiman. Insomma, la condizione di questi bambini, di questi due bambini, lei ebrea, lui schiavo africano, è simile, ed è simile a quella di Clara, la rinoceronte indiana che fa parte di questa compagnia, un po' di un circo, no? Sì, Clara è fantastica, perché in realtà poi una cosa che veramente ho scoperto è che c'è stata nel 700 una vera rinocerontomania, e quindi ci sono tracce di Clara ovunque, nei candelabri, ci sono orologi, dipinti, non solo quello del Longhi, ma anche quello del figlio del Longhi, Alessandro Longhi, ma anche di un francese che si chiama Audry, la troviamo in un trattato di anatomia, e la mettevano dappertutto perché era di moda, c'era anche una parrucca. E in Francia avevano fatto una parrucca, e però ispirandosi al codino di Clara, no? Quindi era una specie di qualcosa, era un rinoceronte virale. Questa cosa mi ha molto, molto colpito. Adesso ci è anche un animale selvaggio ridotto a fare il clown. Ahimè sì, ma la cosa che mi colpisce adesso è che gli amici, ma anche dall'estero, i lettori, mi mandano foto di Clara, perché ogni tanto trovano un oggetto, e recentemente mi è stato mandato qualcosa da Monaco, di Baviera. Ecco, io però ecco, penso sempre che gli animali, soprattutto questo animale, era in pericolo nel passato, ma è in pericolo oggi. Cioè, ancora il rinoceronte muore per il suo corno, muore per niente, no? Perché con questo corno è fatto appunto di un materiale che è uguale a quello delle nostre unghie, ed è una cattiveria che facciamo sia all'animale sia al pianeta. e quindi c'è anche questo in qualche modo di sottofondo. Poi è anche un animale che ha ispirato tantissimi artisti, non sono la prima, e c'è una lunga lista che va da Dalì a Fellini a ovunque, no? Ce ne sono veramente, a Ionesco, quindi in qualche modo ho scoperto anche all'attuale Biennale c'è un mega rinoceronte ai giardini, però appunto lì è chiamato Rhino King Kong, e ho parlato con l'artista che è un signore di Taiwan e lui mi ha detto evviva gli artisti dei rinoceronti. Io trovo veramente delle suggestioni incredibili in questa città, perché è una città del Mediterraneo e secondo me è anche una città del futuro, però noi dobbiamo curarla e averne cura e volerle bene, perché non spesso, appunto, io vedo che spesso viene usata, invece dobbiamo averne una cura e cambiare proprio il nostro atteggiamento di italiani verso Venezia. Venezia non è qualcosa da usare, ma qualcosa da amare, e soprattutto spingere la nostra politica ad avere un po' più cura di questa città che merita il nostro amore. Città il cui simbolo, il leone alato di Venezia, è la chiave di volta di questo racconto, no? Assolutamente sì. Non vogliamo raccontare la fine, però insomma, no, il leone alato aiuta Clara a ritrovare la sua libertà. Sì, perché nella mia idea era anche un po' il potere che smette di essere potere in qualche modo, ma viene a patti, cerca di fare un gesto di solidarietà che gli costa fatica, il leone gli costa fatica, però farà un gesto molto molto molto bello. E poi io volevo usare veramente elementi veneziani, cioè il ghetto, appunto la storia della schiavitù, i dolci, e il leone. Non potevo lasciar fuori il leone, perché quando noi pensiamo a Venezia spesso pensiamo al leone di San Marco. Leone di San Marco, che ha una storia antica, appunto anche nobile, di questa repubblica illuminata che fu la Repubblica di Venezia, ma che è stato usato anche dalla politica negli ultimi decenni per rivendicare un'autonomia del nord. Però tu giustamente lo riprendi come il re, il simbolo più nobile di Venezia. Vabbè, è anche nelle favole classiche, no? Il re della foresta è sempre il leone, no? Sì, io ho cercato di fare dei ribaltamenti, perché quello che mi premeva, e ho scoperto che arriva ai bambini, è proprio questo messaggio di solidarietà, di aiutarci l'un l'altro, di anche... Anche non è un libro che ha un happy end, per esempio, cioè ce l'ha ma non ce l'ha. Però pensavo volevo... per dirti ce l'ha l'happy end. Sì, ce l'ha, ma in parte anche no, cioè è un po' complicato la faccenda. E insegno un po' ai bambini quale, almeno quello che io volevo fare era insegnare ai bambini, uno, i valori della solidarietà, i valori della differenza. E poi non ultimo a guardare i quadri, perché comunque questo libro nasce dalla storia dell'arte, e la prima presentazione che ho fatto del libro, sono stata molto contenta di averla fatta proprio lì, l'ho fatta al Museo Carezzoni, che è il Museo Civici Veneziani, e dopo aver fatto il laboratorio abbiamo portato i bambini a vedere il quadro. Ed è stato meraviglioso, perché i bambini hanno visto nel quadro tante altre cose che gli adulti magari non vedono. Cioè portare era anche un modo, noi siamo comunque l'Italia della storia dell'arte, no? Non l'Italia della cultura. Ecco, secondo me il vero Ius Soli è quello appunto culturale. Quello che ci dà proprio la nostra arte. Noi siamo circondati, infatti chi dice che i bambini non devono avere la cittadinanza non si rende conto, perché chi è nato qui e chi cresce qui, lo so per certo perché io sono nata in Italia, comunque respiriamo quest'area è fatta di arte, fatta di colonne, di dipinti da Michelangelo a Raffaello, agli artisti minori come appunto Pietro Longhi, e questa cosa ci scorre nel sangue alla fine, no? Quindi veramente siamo tutti italiani grazie alla nostra cultura italiana. E come dicevi, è importante l'immaginario anche pittorico, e mi viene da dire, sono all'altezza le illustrazioni, le tavole di Fabio Visentin che illustra questo libro, molto belle queste immagini, queste tavole, nel raccontare Venezia e un immaginario quasi magico. E da questo punto di vista si chiude tutto sul carnevale, no? Perché un'altra delle espressioni di Venezia conosciuta in tutto il mondo è quella del carnevale. Sì, abbiamo Fabio Visentin, è un illustratore veneziano, e io infatti avevamo chiesto, io ho cercato tanto un illustratore di Venezia perché ci tenevo a fare un lavoro con un artista locale, e Fabio ha dato a questo libro veramente tanta magia. Le sue illustrazioni sono bellissime, a volte anche ironiche, no? Perché c'è un gatto, no? Questo, che poi il gatto è il narratore effettivo del libro, che entra e esce da questi disegni, e ci sono tanti colori, e la copertina del libro è un ponte veneziano, cioè non c'è San Marco per intenderci, ma abbiamo appunto scelto sia nel testo sia nell'illustrazione una Venezia un po' più quotidiana, quindi il campo, le case viste da sopra con questi tetti rossi e appunto i simboli della città. È stato bello lavorare con un artista appunto di Venezia, perché comunque è stato uno scambio molto proficuo, e le illustrazioni veramente hanno dato a me una gioia rara, proprio perché è bellissimo vedere qualcosa che scrivi trasformarsi in disegno, in magia. Io non so disegnare, quindi ero lì davanti a questo rinoceronte estasiata. Ijaba, sarà l'unica tua esperienza per i ragazzi, per i bambini? Mi pare di capire di no. Io vorrei continuare, io spero, però io penso sempre che dobbiamo dare ai bambini e agli adulti, questo vale per tutti, delle storie che abbiamo dentro. Ecco, Clara è stata veramente una storia che avevo tanto dentro, è uscito tutto veramente in modo anche inaspettato per me, non sapevo, mentre scrivo non sapevo che cosa poteva venire fuori, e devo dire che per me è stato veramente magico scoprire che avevo anche questo tipo di scrittura dentro di me. E adesso sì, spero di continuare, perché i bambini mi hanno dato tanta soddisfazione, tanta me ne daranno, perché insomma adesso comincio un piccolo Clara Tour, che non è il tour del Settecento, ma un tour appunto dove restituiamo dignità a questo rinoceronte, un po' dalla Sardegna appunto a tutta l'Italia, e vorrei portare questo laboratorio un po' in giro. Anche perché quello che mi danno i bambini è unico, poi ogni tanto mi danno anche tante altre suggerimenti per farla fuggire. Uno di questi è stato: mettiamo Clara sullo skateboard, che ho adorato abbastanza. E poi sì, spero che il prossimo carnevale, insomma, di trovare un posto per Clara a Venezia, insomma, perché il carnevale non è una qualcosa che me la sono inventato, però proprio questa storia è legata come nessuna al carnevale, perché la vera Clara era stata in me portata per il carnevale. Ecco, potremmo ribaltare anche qui tanti significati. Grazie Giabba Scego per essere stata con noi questa sera, a tutti voi per essere stati all'ascolto di Indovina chi viene a cena. Questa era l'ultima puntata della stagione, dalla prossima settimana andranno in onda altri programmi su queste frequenze. Ad agosto vi faremo compagnia con il meglio di tutte le puntate 2016-2017 alle 11.30 del mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì a partire da agosto e per tutto il mese di agosto. Ci risentiamo in autunno perché Indovina chi viene a cena torna con nuove storie, nuovi personaggi, nuove persone che hanno radici altrove, nuovi menù, sempre tarda serata, ma menù interessanti. Buona serata da Valentina Furlanetto, ciao e buona estate. You've got to give a little. That's the glory of love.